sospesa su di un prato, il battito di un cuore che ancora non si è fermato. Girato troppo poco il mondo, ma so cosa voglio. Guardando questo cielo giro senza portafoglio. In fondo, cosa siamo noi? Anime pure fatte per volare in alto. Che succede poi? Non siamo pronti per il salto, rimaniamo in basso. Le paure si trattengono coi piedi sull'asfalto. Intanto mi godo questo attimo di pace e so che ricercarlo sì sarò capace. Braccio che vive sempre dentro di me, nei miei occhi, pensieri che non blocchi. Visto il cielo so che lo ritroverò ovunque andrò. La luce di una stella dentro al cuore porterò. Non mi perdo nel mare di sto mondo che ti vuole servo. Le nuvole ora corrono veloci. È bello quando a draghi poi le associ. Con la fantasia di un bimbo dentro agli occhi. Che i mondi così veri che li tocchi. Sto col naso verso il cielo come da piccolo. Nuvole che passano, mani che si stringono. Stagioni volano, lasciano solo un brivido. Un ricordo che rollo in un personal di critical. Inspiro ganja che purifica ogni lirica. La mia anima si vibra, la sento viva. Cremo questa cima, poi dipingo a china. L'accendo al tramonto e scrivo fino a mattina. C'ho troppa fantasia, me l'hanno sempre detto. Stai coi piedi per terra, Lord, ma non ci riesco. Fuori dal mondo resto solo come stesso. Uso l'universo come tela, come colore un verso. Sono diverso dagli altri, perso nei miei viaggi. Esattamente in mezzo fra realtà e miraggi. Momenti magici, sospiri e baci lenti. Esprimi un desiderio e guarda stelle cadenti. Le nuvole ora corrono veloci. È bello quando a draghi poi le associ. Con la fantasia di un bimbo dentro agli occhi. Che i mondi così veri che li tocchi. Agli occhi che i mondi così veri.